A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La ricerca dell'indipendenza attraverso quella di soldi facili. Io voglio una possibilità economica mia, o vado a spacciare la droga o faccio questo. È con una semplicità spiazzante che la più piccola delle minorenni romane finita nel giro di prostituzione racconta ai magistrati la sua vita. Una vita scandita da appuntamenti con i clienti nella capitale e fuori, una vita in cui ad un certo punto hanno cominciato a girare tanti biglietti da 100 euro, insieme a borse costose ed abiti firmati. Una vita in cui il corpo diventa una merce preziosa, gestita anche da adulti. Avevano scelto nomi sognanti, Aurora e Azzurra, le due liceali dei parioli, per le loro identità sul web, su quei siti di incontri e annunci che hanno spalancato loro le porte di molte stanze da letto e le rubriche di Ancora più uomini. Storie che si ripetono come fotocopie, storie come quella successa qualche anno fa a Torino in una scuola, storie come quelle che sembrano emergere di nuovo anche a Milano. Si comincia spesso dallo scambio di foto e video pornografici, si finisce altrettanto spesso sotto ricatto e in quella condizione di disperazione che potrebbe spingere pure a tentare un suicidio. Parla di situazione allarmante uno dei magistrati che da più tempo si occupa di reati sessuali su minori, Pietro Forno, procuratore aggiunto di Milano. I fatti romani sono sicuramente un campanello d'allarme. Io questo allarme l'avevo già dato nel 2008 quando ero procuratore aggiunto a Torino. Avevo individuato un caso che sembrava la classica punta di iceberg in cui una minorenne di buona famiglia si prostituiva, aveva aperto un sito, aveva degli incontri sessuali sia con compagni di scuola sia con persone che rispondevano alle sue offerte sul sito, quindi c'è un'enorme facilità oggi di contatto che sfugge alle famiglie. Lei ha citato un sito anche in questa vicenda romana, tutto parte da un sito nei confronti proprio anche di questi siti di annunci. Che tipo di intervento vede? Gli strumenti investigativi e anche gli strumenti legislativi non mancano, sia perché ci sono norme sulla prostituzione minorile e sulla pedopornografia estremamente severe, che addirittura consentono entrambi le cosiddette azioni sotto copertura. Quello che è necessario sono le denunce, perché ovviamente noi non possiamo muoverci se non sulla base di denunce, e naturalmente le denunce non sono tantissime, però sono obiettivamente in aumento, perché c'è non soltanto la prostituzione minorile, ma ci sono tutti gli adescamenti. Fortunatamente è entrato in vigore con la convenzione di Lanzarote il reato di adescamento. La vicenda romana racconta di due ragazzine, forse anche qualcuno in più, ma anche della presenza di un manager, quello che un tempo si chiamerebbe un pappone. Quali sono i meccanismi che le inchieste di cui lei si è occupato, che le inchieste che conosce, ci permettono di raccontare? Quello che si può dire in linea generale è che il o la minorenne entra in una specie di tunnel da cui fa fatica a uscire, perché quando per esempio viene invitata a fare esibizioni sessuali finalizzate poi a filmati, è chiaro che si sottopone a un potenziale, oserei dire quasi sicuro, ricatto. Le verranno fatte successive ulteriori richieste con la minaccia che in caso contrario verranno divulgati, magari verranno mandati agli stessi familiari i video e le immagini pornografiche. Quindi la dinamica di questi fatti porta la persona alla disperazione, e non mi stupirei che ci possano anche essere dei casi di tentato suicidio da parte di minori che non trovano altra strada per uscirne. Quindi da questo punto di vista è allarmante. Cioè, mi sembra di capire che comunque il fenomeno è ben più ampio di quanto non si possa immaginare. C'è indubbiamente un aumento di segnalazioni, ovvero di denunce di fatti di pedopornografia che riguardano minori, così come di denunce di adescamento. Denunce da parte delle famiglie? Le famiglie, le quali peraltro spesso si trovano a dover combattere su più fronti, non soltanto sul fronte degli abusanti, ma sul fronte dei loro figli. Queste storie, anche quella torinese a cui lei faceva riferimento e anche questa tuttora in fieri milanese, sembra parlare di ambienti che non sono quei ambienti degradati, diciamo. A questo stesso ambiente potrebbero appartenere anche i profili di chi pensa di gestire queste ragazzine? Quando si parla di reati a mezzo internet si fa riferimento il più delle volte ad ambienti medi. Lei faceva riferimento prima a questa preoccupazione molto seria che delle ragazzine e dei ragazzini finiti in questo giro, in questo tunnel, come l'ha definito, possono anche rischiare di tentare un suicidio. Ci sono state vicende che le hanno fatto temere questo? Certamente livelli di prostrazione estrema sì, e dalla prostrazione al tentato suicidio il passo può essere breve. Un rischio suicidio per giovani vittime di giochi pericolosi. Un allarme gravissimo e serissimo. È quello che uno dei magistrati di più lunga esperienza sui reati sessuali per minori racconta, è l'altra faccia di una medaglia rispetto a quei messaggi sfrontati e a quelle frasi senza veli che Aurora e Azzurra a Roma, come le altre ragazzine a Milano o a Torino, scrivono nelle bacheche di incontri, nelle chat e negli sms rivolti ai loro clienti. Sono alta 1,70 m, ho la quinta di Reggiseno e 3 tatuaggi. Amo il sesso con uomini più maturi di me e non ho tabù. Per il resto sono una ragazza normalissima. Sono un brivido sulla schiena di tutti i genitori, le intercettazioni dell'inchiesta romana, ma sono anche per gli investigatori la difficile conferma di realtà sommerse, dove dietro linguaggi e forme da donne vissute si nascondono delle ragazzine. E non di rado è proprio questo linguaggio a tradire la loro effettiva età in quei siti di incontri e di scambio di foto e video pornografici dove si infiltrano sotto copertura pure gli agenti della polizia postale, come Elvira D'Amato, vicequestore aggiunto del Centro Nazionale contro la pedopornografia in rete. Lo scambio del materiale pedopornografico è uno tra gli elementi utilizzati dai potenziali abusanti nei confronti delle giovani vittime per convincerle sulla normalità del rapporto sessuale tra un adulto e un minore. Quindi in qualche modo possiamo dire che si comincia con una foto scherzosa ma sempre più ammiccante e si rischia di finire con un incontro in carne ed ossa, diciamo. Si potrebbe rischiare di finire, non è per fortuna così inesorabile, però effettivamente un minore si può far prendere la mano dalle promesse, dalla familiarità che un adulto propone nell'incontro, e questo indipendentemente dal fatto che l'adulto possa promettere regalie, ricariche telefoniche piuttosto che pagamenti, insomma, corrispettivi rispetto all'incontro a prestazione sessuale. Sappiamo perfettamente come moltissime vostre indagini siano fatte anche proprio dall'interno, quindi anche infiltrandosi in questo mondo. Quello che vorrei chiederle è: le comunicazioni tra i minori e eventuali adulti, che cosa ricostruiscono le inchieste? Noi utilizziamo lo strumento dell'indagine sotto copertura, quindi ci infiltriamo con identità fittizie nei vari servizi della rete e inseguiamo le comunità pedofile o comunque i singoli soggetti che vanno verso l'adescamento. Noi puntiamo verso sistemi anche più organizzati, anche solo dal punto di vista tecnologico, ad esempio in spazi nel web profondo, nel web nascosto, dove comunità di pedofile si scambiano il materiale fresco, tra virgolette, quello prodotto da poco su proprie vittime in propria disponibilità, e quindi vanno a scovare le realtà dove molto spesso lo scambio e la divulgazione di materiale è connesso a un abuso a monte di un minore da identificare. Ma quanto poco di questo mondo emerge, e poi da questi giri di adescamenti online si passa ai pali delle lap dance dei locali notturni o ai gruppi di escort chiamate per feste VIP e clienti di alberghi a 5 stelle? A ciascuno il suo. Quelle che esercitano per strada si riconoscono subito, con quei tacchi troppo alti e le gonne troppo corte. Le altre si muovono invece dietro le porte di eleganti stanze da letto, nei bagni di licei famosi o in appartamenti di quartieri bene. Spesso è solo per caso che le storie delle ragazzine che arrivano a vendere il proprio corpo emerge. Aumentano le denunce dei familiari, sì, come sentivamo nella prima parte, ma quanto resta ancora sommerso? Un adolescente su quattro si scambia su internet immagini pornografiche, e se questa è l'anticamera talvolta di incontri a pagamento, il quadro è davvero fosco. Secondo Save the Children sono almeno 300 i minori italiani che si prostituiscono. E solo per caso noi lo scopriamo, analizza Fabio Roia, giudice della sezione penale soggetti deboli del Tribunale di Milano, che cita pure il caso Ruby. È un fenomeno molto sommerso, che difficilmente emerge perché, fra virgolette, c'è un consenso della ragazza minorenne a fare questo tipo di attività, che è un'attività di mercificazione molto brutta del proprio corpo, finalizzata ad ottenere guadagni, facili carriere e magari prospettive di lavoro non difficile. Questi fenomeni emergono quando ci sono soltanto dei fatti eclatanti o casuali. Penso per esempio alla vicenda di Ruby, probabilmente non sarebbe emersa se non ci fosse stata quel tipo di telefonate, quel tipo di intervento, oppure quando ci sono degli osservatori esterni della famiglia dei ragazzi, delle ragazze che vengono in contatto con questo mondo. Sì, per la prostituzione più tradizionale, chiamiamola così, vediamo per strada appunto le donne che si prostituiscono, invece in questo caso tutto avviene nel segreto di stanze chiuse, di case, a volte anche di quartieri bene. Le indagini che cosa ci permettono di dire sugli ambienti più a rischio? Sono ambienti da salotto, se possiamo dire questo termine, sono ambienti un po' più eleganti, raffinati, e quindi è difficile poi entrare in questi ambienti. È importante che funzionino gli osservatori esterni, quindi penso, al di là della famiglia, come nel caso di Roma in realtà erano proprio i genitori che non attivavano la posizione di garanzia ed anzi tendevano a sfruttare le proprie figlie, che è veramente infamante. Devono essere i genitori a vigilare, devono essere gli educatori scolastici, devono essere, non so, penso i medici di base, cioè tutti quegli osservatori esterni che vengono in contatto in qualche modo con la ragazza minorenne, che possono cogliere dei segnali di disagio, perché io reputo che comunque quando un adolescente sceglie di vendere il proprio corpo anche fra virgolette liberamente, e ci siano dei segnali di sofferenza e di disagio. Ecco, lei ha fatto un riferimento con la vicenda Ruby, senza entrare nello specifico di quella questione che ha appunto una sua specificità anche per i personaggi coinvolti, ma secondo lei vicende come questa romana, ma anche a Milano adesso c'è un'inchiesta sulle ragazzine appunto che si venderebbero nei bagni delle scuole, vicende che riguardano la prostituzione di minorenni, possono essere considerate, diciamo, l'anticamera di quel tipo di prostituzione che invece viene indicata con il nome di escort, cioè quelle delle ragazze che passano poi dai locali alle feste VIP? E io penso proprio di sì, quello è il segmento che è completamente antitetico, alternativo rispetto alla prostituzione da strada, dove molte volte alle spalle c'è un'attività di tratta, di importazione fraudolenta, ingannatoria di queste ragazze, non so, dai paesi dell'est piuttosto che dell'Africa o da altri continenti. Questo sì, è una prostituzione che, come dire, viene attivata da quando uno è minorenne, adolescente, che può, dove può, nel momento in cui può mettere in vendita il proprio corpo, e che viene fatta forse con finalità di guadagno o poi di attività professionale stabilizzata anche da adulta. Sicuramente sì, può essere l'anticamera di quel tipo di attività che questi processi che sono stati celebrati a Milano hanno in qualche modo evidenziato. È un tipo per lo più di prostituzione fai da te o ha anche una gestione la maggior parte delle volte? Nel momento in cui si esce così dal cerchio intimo dell'amicizia e degli incontri, c'è uno sviluppo, così come mi pare stia emergendo dall'inchiesta di Roma, c'è la necessità di qualche manager e quindi di qualche sfruttatore, in che soprattutto metta in contatto queste giovani ragazze con dei clienti che pare essere sempre più facoltosi e comunque appartenere a dei ceti alti. Anche un discorso, come dire, di prezzo, perché se poi le richieste riguardano determinate cifre, è ovvio che quelle cifre le può sborsare solamente certe persone che appartengono a certi ambienti. Nei confronti dei clienti delle Baby Squillo le pene sono molto dure, ma fatta la legge è trovato l'inganno anche in questo caso, perché spesso pure nei messaggi sul web ufficialmente si cercano solo maggiorenni, anche perché tra le pieghe della Convenzione di Lanzarote da poco introdotta si distingue tra i casi di chi era del tutto consapevole di avere a che fare con una minorenne e chi invece ha cercato effettivamente di capire l'età concreta. Non la fanno franca comunque, rassicura il procuratore aggiunto Pietro Forno, esperto di reati sessuali sui minori. A me non risulta in questo momento una casistica di clienti che l'abbiano passata liscia solo perché hanno avuto dalla vittima indicazioni false sulla loro età. Anche all'interno delle scuole questi fenomeni vi risultano? Il caso torinese che io ho trattato era proprio all'interno di una scuola e un bravo ispettore del commissariato Mirafiori, avendo visto il sito utilizzato dalla ragazza, si è presentato a lei, si è qualificato, le ha chiesto se aveva voglia di fare quattro chiacchiere e la ragazza l'ha visto come un liberatore di un incubo. Ma all'interno delle scuole tra minorenni? E lì era sia tra minorenni che con maggiorenni. E lei ha parlato di un caso specifico, ma è un fenomeno che si può replicare anche altrove, diciamo, le dinamiche poi alla fine? Sicuramente credo che l'appello vada fatto da un lato alle famiglie e dall'altro alla scuola, perché questi minori che tengono questi comportamenti non possono passare inosservati. Anche perché hanno parecchi soldi, come diceva, e anche nelle sue vicende di cui si è occupato, i prezzi passavano dalle ricariche oppure andavano a ricariche telefoniche oppure andavano anche su centinaia di euro. Tutti e due, perché più il giro è ampio e più le disponibilità del minore sono elevate, quindi si incomincia dalle ricariche ma si può finire ai vestiti firmati e via discorrendo. Vede invece un rischio concreto dell'aumento della prostituzione minorile con questo escamotage introdotto da una convenzione internazionale il giudice Fabio Roia. Sulla maggiore età bisogna fare molta attenzione, perché esiste un reato che è quello di sfruttamento della prostituzione minorile, o comunque anche il semplice adulto, soggetto adulto che va con un soggetto minorenne a pagamento, deve essere consapevole dell'età minore del soggetto. Recentemente c'è stata una delle tante normative che in realtà ha indebolito questo tipo di intervento, perché in qualche modo il cliente che va con un soggetto minorenne può essere scusato se dà la dimostrazione in qualche modo di essersi attivato per verificarne la maggiore età, e quindi noi sappiamo che molti adolescenti che sono soprattutto al limite della maggiore età si presentano proprio per il grado di maturazione o per il grado così dei tratti somatici maggiorenni. È comunque però da dire, da osservare, che esiste un reato che è un reato molto grave dal punto di vista anche della pena nel nostro codice penale, che punisce anche i clienti. Infatti l'inchiesta di Roma e quindi anche il web parallelamente deve punire le persone che cercano incontri a pagamento con soggetti che sanno essere minorenni. Cioè, se dicono di avere la maggiore età, questo in qualche modo copre anche il cliente, giusto? Sì, è giusto, il ragionamento è giusto, poi ogni singola vicenda processuale va analizzata ovviamente in relazione al tipo di ragazza, al tipo di cliente, eccetera. Certo, ma questo secondo lei può portare ad un aumento di questo tipo di prostituzione minorile, questo tipo di norma? Io penso proprio di sì, perché è vero che il cliente non ha l'obbligo di chiedere i documenti d'identità alla potenziale prostituta minorenne, ma è anche vero che però, essendo la norma ben descritta e ben strutturata, deve attivarsi per far sì di capire e di comprendere che questa persona sia maggiorenne. Se accetta il rischio che sia minorenne, in qualche modo risponde del reato. Quello che è sicuro è che tutto non può che ripartire da una maggiore attenzione verso il mondo degli adolescenti e verso i pericoli del web, ed è per questo che la Polizia Postale è nelle scuole che cerca di fare prevenzione, come racconta il vicequestore Elvira D'Amato. È normalissimo essere in rete, tanto più per i giovani, per comunicare e trovare risposte alle proprie curiosità o domande. È però altrettanto importante rappresentare a questi ragazzi, ai loro genitori, agli insegnanti, a tutti coloro che sono il circuito di sostegno dei giovani, alle figure di riferimento, che i rischi in rete sono veramente tanti. E invece, a proposito della storia, chiamiamola così, di questi siti, cioè io parlo proprio dei siti, quelli di scambio di materiale o dei siti di incontri, hanno in genere una vita breve, cioè chiudono per poi riaprire sotto un altro dominio così da essere più difficilmente rintracciati? A volte vengono chiusi anche da voi? Siti dove viene veicolato materiale pedopornografico vengono messi nella cosiddetta blacklist e quindi mandati ai provider italiani per procedere all'oscuramento. Chiaramente sono tutti attestati all'estero. Nel caso in cui riusciamo a trovare un sito che invece è in territorio italiano, la procedura non è quella del semplice oscuramento, ma sarà quella di chiudere definitivamente quel rubinetto e assicurare alla giustizia che lo gestisce. E a voi che effetto fanno queste storie di giovanissime prostitute? Se vi va, raccontatecelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!